Lo psicologo deve perfezionare e stare aggiornati al passo dei tempi. La psicologia for dummy è un ramo della psicologia che si afferma che per prima ha visionato i soggetti detti bimbi minchia. Deve stare attento perché questi bimbi minchia se acquistano un gioco, a volte può essere trauma. Cos'è trauma? Trauma è vedersi recapitare la madre nello studio incazzata perché suo figlio non vuole trombare e ha paura delle donne. Vuole rimanere vergine. In questo caso la psicologia for dummy ha varie terapie tipo quella di distruggere con il tagliaerba tutti i CD della Xbox. E trauma, ma il figlio si deve costruire una vita. Capitolo sofferenza, 23.445.423 cazzo in culo / bis. Psicologo, W la figa.